100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Se non puoi batterli, mangiateli. È quello che disse Mike Tyson ad Holyfield quando gli morse l'orecchio prima di finire al tappeto. Ed è quello che sta facendo la Fiat con gli hacker americani. Dopo aver visto una violazione del proprio sistema informatico e soprattutto del sistema tecnologico delle proprie Jeep, la Fiat ha cambiato strada. Invece di investire miliardi per cercare di proteggere l'automobile, ha deciso di mettere sostanzialmente un premio a qualunque hacker che sarà in grado di violare le automobili del Fiat Chrysler e di poi spiegare alla Fiat come ripararle. L'iniziativa, che non ha precedenti, per ora vale soltanto in America, e il premio sono $150, il minimo, fino a $1,500 per il suggerimento più importante. Nell'era del web non ci sono più regole ed anche un hacker può diventare più utile di uno scienziato. I risultati li sapremo presto, ma intanto una considerazione la possiamo fare. Quella della Fiat è sicuramente una mossa importante sul piano del marketing. Aprire l'azienda, i suoi valori e i suoi prodotti a categorie che probabilmente ne sono state sempre fuori. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. È un mestiere difficile quello che fa Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e nella relazione annuale presentata oggi al Senato la difficoltà è emersa in tutta la sua evidenza, anche se a dire il vero qualcosa sta migliorando. Le segnalazioni di anomalie su appalti di lavori, servizi e forniture, ad esempio, sono passate da circa 1.200 nel 2014 a quasi 3.000 nel 2015, quindi con un aumento di oltre il doppio, e hanno generato l'apertura di circa 1.880 fascicoli, con un balzo in questo caso del 50% rispetto all'anno prima. È un buon segnale, ha detto lo stesso Cantone, che ha parlato delle prime tracce, di quegli anticorpi che la società deve saper attivare per battere un fenomeno tanto diffuso e tanto impalpabile. Erano 10 anni, ha detto Cantone, che la parola corruzione di fatto sembrava scomparsa dal vocabolario. Certo, un ruolo importante lo dovrebbero avere le amministrazioni, che però, come al solito, tendono ad applicare la legge sul piano anticorruzione in modo formale, burocratico, in sostanza ostacolando più che agevolando il lavoro dell'autority. Ha detto Cantone, con un vero e proprio atto d'accusa, che il responsabile della prevenzione della corruzione è sempre più una figura isolata e gli stessi organi di indirizzo politico si disinteressano e si limitano a ratifiche formali, senza alcun supporto reale alla sua attività. La Babele di leggi, infatti, favorisce invece di reprimere il fenomeno e diventa il brodo ideale per funzionari disponibili alla tangente. Per questo Cantone ha chiesto semplificazione e differenziazione degli impegni richiesti a seconda del tipo di amministrazione. In realtà bisogna concludere che c'è ancora un'Italia gattopardesca che è davvero dura a morire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.